il lonfo non vaterca né gluisce, e molto raramente barigatta, ma quando soffia il bego abisce pisce, stilenca un poco ignacio s'archipatta. È frusco il lonfo, è pieno di lupinia, a rafferia malverza e sofolenta. Se cionfi ti sbiduglia e t'arrupinia, se lugri ti botolla e ti criventa. Eppure il vecchio lonfo ammargelluto, che bete, zucchi e fonca nei trombazzi, fa legica busia e fa gisbuto, e quasi quasi in segno di sberdazzi gli arrafferesti un gniffo. Ma lui zuto, talloppa, ti sbernecchia, e tu l'accazzi.